posso, non posso terminar. Finiscila, come il petto, ti metto questo char, ti metto questo char. Che piccio, che capriccio, che gusto, che spassetto, io sento vincerar. Lo voglio far tremar, lo voglio far tremar. Oh, statua gentilissima, benché di marmo siate, oh, padrone, padron mio, mirate, mirate, che seguite a guardare, che seguite a guardare. Fare, fare! No, no, no, no, attendete, attendete. Signor, il padron mio, badate ben, non io, con voi cenar, oh, oh, oh, che scena in questa, oh, oh, oh, che scena in questa, o c'è chi non la testa. Va là che sei un buffone, va là che sei un buffone, un buffone, un buffone. Guarda, guarda, guardate ancor padrone, e che deggio guardar, deggio guardar, deggio guardar. Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiam